duro. Rapiniera abusivo. Vabbè, io sto mangiucchiando qualcosa. Oggi mamma voleva andare al mare. Io ho detto, decidiamo dopo, sono un po' così. Sono che nel pomeriggio mi sono addormentato, mi sono svegliato poco fa. E quindi niente mare. Volevo starmene a casa al fresco, così, tranquillo, senza stancarmi. Sto mangiucchiando qualcosa, perché mi sono accorto che sono già le 6:30. Ma sta andando dopo cena a pigliare il fresco, io intanto lo scendo. Oggi è il compleanno di mia moglie e dopo scendo io e due amiche di mia moglie. Se vuoi scendere ci troviamo al limite da Ernesto, lì ci prendiamo il gelato e ti va a campare, ci pigliamo l'ubreco. Dopo cena scendiamo, se vuoi scendere metto il baracchino in macchina io, così almeno ci possiamo tenere in contatto. Non ho capito, un attimino. Beh, novità da quelle parti. Niente all'orizzonte, Isma. Digli, buttacelo quel televisore, avete finito di guardarlo. Niente, cacciatemi un cazzo. Tutti a Napoletano. Vabbè, non fa niente. Se tutta l'estate per andare al mare, ma oggi mi volevo riposare. Non lo so, non ne avevo voglia. E poi mi sono addormentato, stavo dormendo così bene. A un certo punto mi sento toccare. Con gli occhi c'era mamma, e ha detto, Marco, tutto bene. Mi sei addormentato. Ah, tu e io. Ero come in paradiso, col ventilatore in alto che muoveva l'aria. Cosa mi voglio comprare? Ora lo compriamo in due con mamma. Quel rinfrescatore d'aria che funziona con acqua e ghiaccio. Non è un condizionatore che è troppo forte. Funziona con acqua e con ghiaccio, metti quel ghiaccio finto azzurro, no, che si mette nelle borse frigo. Praticamente fa circolare l'acqua in una setta, in tutto un radiatore, e la ventola spinge fuori l'acqua raffreddata e butta fuori aria fresca praticamente, non come il ventilatore che sposta l'aria normale, butta fuori aria fresca e ti rinfresca una stanza, capito, dove stai. È bellino, l'avevo già visto da Ocean e aspetta, usciva proprio aria fresca, era in funzione. Costava un centinaio di euro. Allora me lo sto già comprando. Di quei pinguini, lo sai quanti ne ho, perché c'ho due borse frigo, mi manda giù sì e me lo compro, così manda aria fresca tutta la situazione qua. Sì, ricordati, non è un condizionatore, il condizionatore ti fulmina, è un gelo, noi ce l'abbiamo ma non lo usiamo nella camera, se no ci ammazza. Quello rinfresca l'aria, se l'aria è più fresca quindi abbassa di qualche grado la temperatura interna, hai capito? Yes. Cosa mi dici, dopo cena a Sondezze, quello a Sintuesco lì. Buon Natale, vediamo, perché io poi mi attacco alla TV sempre. Allora, quello che piace a me si chiama Argo Clima, la marca è Argo, che sarebbe Argo Clima, Air. Bravo, ecco, Alfa Romeo, Air. Ce ne sono tanti modelli anche di forme strane, tipo il Polifemo, però a me piace il Bear, ho visto quello dello Shan 2 anni fa, mi è piaciuto quello. E vediamo, ma come funziona elettrico, come il ventilatore, io non so neanche di com'è che funziona questo studio. Sì, c'è una ventola elettrica, è basso, come la ventola, cioè consuma poco. Ci devi mettere acqua e quei pinguini, e l'acqua la devi tenere fredda. Quando senti che comincia a soffiare aria meno fredda, li cambi il pinguino, come li chiami tu, nella vaschetta, li metti in quelli freddi, quando si sciolgono, insomma, quando diventano più caldi, li metti freddi. Capito? Deve essere una figata. Addirittura, tecnicamente si chiama raffrescatore d'aria ad evaporazione di acqua, ad evaporazione si chiama. Comunque sì, è per una camera, anche per una camera grande, tipo voi, almeno te la rinfresca un pochino, capito? Costa di solito un centinaio di euro, forse un po' di più, dipende, perché sai, se lo compri da fuori costa un centinaio o più la spedizione, quindi siamo sui 115-120 euro. Dovrebbe averlo Euronix, Unieuro, quei posti là. Shanna ne ha, ma non è il modello che voglio io. Sì, basta andare a vedere dove lo troviamo, ma... Poi non ha bisogno di pupi, non ha bisogno del pupo come il climatizzatore che va messo fuori, no? Assolutamente, questo è indipendente, niente tupi. Sì, bisogna vedere com'è, va, e provarlo se è una cosa valida. Guarda, io l'ho visto in funzione da Ocean, se l'ho messo l'acqua, il ghiaccio, e usciva un'aria bella freschezza, più aria fresca, infatti ho detto bello, sono sul punto di comprarlo, poi magari non avevo soldi, non so. Pensiamo di vederci la spesa con mamma, 50-60 euro a testa, per regalarcelo, dai. Ok, dai, adesso vediamo se decide. Mamma è un po' legna verde, no? Sì, perché sai, se lo pago tutto io mi viene male, poi rimango senza soldi. Invece se ci dividiamo la spesa è meglio. Casomai ci guardiamo la TV nella stessa stanza, capito? Mi metto sulla sdraio, se è una sedia a sdraio, ci guardiamo la TV assieme quando è acceso. Sì, infatti. Io questi li avevo visti da qualche anno fa su eBay e c'è scritto rinfrescatore d'acqua, no, rinfrescatore d'aria ad acqua, ma naturalmente non c'era scritto che c'era acqua più il ghiaccio, no, quei pinguini, come li chiami tu, quelli azzurri, no, che metti, quindi bisogna averne vari, certi in freezer e certi lasciati in uso, si fanno ricambiati, capito, come si scaldano, quelli vanno rimessi in freezer, è un'idea carina, dai, al telecomando, quello che piace a me, quindi se ce l'hai lontano lo puoi comandare dal telecomando, tre potenze, alta, normale e poi sleep per la notte, e la ventola va piano piano, non la senti nemmeno e non disturba il sonno. Poi fa il timer, puoi decidere di lasciarlo un'ora, due ore, sette ore, capito? Dopodiché si spegne da solo. E l'apparecchietto, dai, bisogna solo trovarlo a Sassari. E ci sto facendo un pensierino. Io ho comprato il ventilatore grande da mettere sul frigo, dove c'era l'antenna CB, perché quella colonna me l'ha fatto buttare via mia moglie, ne ho preso uno grande così, però senza essere di quella colonna, va, da mettere sul frigo, perché qua ingombrava, diciamo così. Ma cos'era, hai detto, a colonna, un ventilatore? Sì, di quelli grandi a colonna. Io l'ho preso grande così, con la ventola così grande, però senza colonna. Sì, hai fatto bene. Vedi, si voleva cambiare il ventilatore anche a mamma. Ho detto, non prenderli piccoli, non prendere quelli con la pala piccola, perché non senti niente. Prendene uno da appoggiare, non a piantana perché li rompe, uno piccolo con la pala grande perché sposta più aria, solo che vedi il ventilatore sposta la stessa aria che è calda, invece quel rinfrescatore è un bijou, Si abbassa la temperatura della camera, capito? Si cava magari 30 gradi e te la porta a 29, 28, 27. Adesso decidiamo, dai. Decidiamo, perché poi, mamma mia, luglio e agosto c'è ancora più caldo. Ciu-ciu. Questo ventilatore c'ha 3 potenze, è un bel potente, è nero, e c'ha la ventola trasparente, no, a 3 non lungo mai. Due cosette, poi finisco con un po' di dolce. Claudio, non si è sentito ancora? Negativo. Abbiamo la torta, anzi due ne abbiamo, una gelato e una normale. Ah, per il compleanno, Io invece vorrei per l'estate prendere dei gelati. Abbiamo un frigo normale, no? Col freezer. Poi in camera mia c'è un piccolo congelatore. Un piccolo congelatore, però mamma lo riempie sempre a strozzo, è sempre pieno, lo riempie perché non ci sta nemmeno uno spaghetto. Io invece ho detto sfruttiamolo un po', così ci mettiamo dei gelati e quando vogliamo ci prendiamo un bel gelato, può essere conico, pepe, il magnum, quello lì, capito? Avere un po' di gelati, magari anche ghiaccioli a portata di mano. Un attimo, registrate, io prendo quello vaschetto da di gelato, ne ho preso una da Eurospin, un chilo e mezzo di gelato, paurosa era, non a Biru. Io c'ho un break, Marco. Eia, vaschette di gelato, eia, avanti il break. Vediamo il segnale, la radio sembra buona. Sì, radio 5, Santiago 9. 9 più 5 anche modulati. Ok. Assimiliamo, non sei tu, no? Ah, ok. Ok, la radio non è fortissima ma è chiara, ok? Buona serata. Ah, Natali, tu prendi le vaschette. A me certe volte, vabbè, le vaschette si prendono per i gusti particolari tipo Malaga, no? Quei gusti che non trovi nel cornetto. Io vorrei mettere cornetti, qualche gelato biscotto molto buono, li prendiamo da Eurospin, tipo 6 coni in confezione, pure gelato biscotto, il magnum, oppure sai quale, quello con la panna dentro, col cioccolato sottile, come si chiamava? Il mottarello, come lo chiamavi tu? Il pinguino? Quello lì si chiama il cremino, quelli mi piacciono a me. Il cremino. Ma avere un po' di gelati così in casa quando lo vuoi è un bijou, però se non lo svoltiamo sta sempre mettendo roba e lo premi, lo schiaccia dentro per farci lasciare, è allucinante. Poi anziché mangiare quello che c'è nel freezer compra roba nuova, no? E allora il freezer non lo svuotiamo mai, spetta Natali. Cazzo, siete in due, non c'è bisogno, cazzo, quando avete l'indispensabile. Cazzo, che si la mangia a buttare questa roba, Marco? Sì, purtroppo è così. Ci sono i freezer pieni e continuano a comprare roba nuova da mangiare. Cosa che ti dica? Adesso lo obbligherò a fare qualcosa dal friggerino, così ci mettiamo i gelati. Il cremino, sì, molto buono, molto buono. E il fior di fragola, te lo ricordi che ha la fragola fuori, dentro c'è la panna. E te credo, certo. Io me lo ricordo già. Io lo sai io di cosa ho fatto. Ho preso e ho fatto la pasta asciutta con sugo ai frutti di mare e poi gli ho fatto le polpette al sugo. Cazzo, una bomba. Eia. Mamma ha fatto il pesce, però non... Guarda che fin sopra i capelli del pesce, mi sono mangiato due tramezzini. Non ne voglio pesce. Lo sto facendo troppo spesso. Io voglio carne, delle grasse, come si chiamano, la pancetta voglio, la pancetta bella salatina. Basta col pesce, glielo ho suggerito io, ho detto dovremmo fare un po' di pesce ogni tanto, me l'avessi detto, adesso fa sempre pesce, un giorno sì, non ho pesce. Grazie, io la biglia d'avona. Meglio con la pancetta, lo sai cosa c'è? Il capocollo. Prova il capocollo a vedere. Sì, lo conosco. Lo conosco Natali, comunque stai uscendo male, stai uscendo tutto saturo. Guarda lontano, o metti le macchine a metà, saponato. Saponato e smettila. Oh, ci caschi sempre, 10 volte te l'ho detto, tu 100 volte lo fai. Proprio quel macchine a manetta. Via. Sì, il capocollo l'abbiamo provato, è buono lo stesso. Buono, buono, a me piace il maiale. Poveri musulmani che non sanno cosa si perdono. Ma lo sai che a degli scolari hanno proibito di mangiare il panino con la mortadella perché sennò gli islamici ci rimangono male. Oh, cioè il polmo bisogna fare tutto in funzione di chi viene là fuori. Io invece gliel'avrei mangiato in faccia il panino con la mortadella. Oppure l'avrei tenuto fermo. L'avrei tenuto fermo e gli avrei infilato la mortadella in bocca. Il cazzo, tu lo vuoi terrorizzare proprio, dopo dice che i terroristi siamo noi. Ma no, no, neanche la mortadella, proprio a fargli bere la pancetta, un bel panino con la pancetta. Una roba da matti, adesso uno non si può mangiare il panino o la mortadella perché c'è il musulmano e rimane male. Si rimane male se lo mangia lui. E vedi le fissazioni della religione? La religione fa solo, mette in testa cose strane alle persone. Io che sono quasi ateo, non ho problemi morali di quel tipo. Sì, lo so, però i musulmani dice che rimangono terrorizzati se ti vedono mangiare il panino o la mortadella. C'era scritto su Facebook. Anzi che panino sulla cosa, anzi mi aveva curato la testa in cassetta, rante e buono rubante. Allora io potrei dire che quando vedo il kebab rimango terrorizzato e quindi non lo devono più fare perché io rimango scioccato. I discorsi sono. Proprio così. Lo sai che quella barbona di Platamona si sta allargando. Vabbè, ogni tanto chiedeva soldi per il caffè, che magari si mangia, e vabbè. E un giorno mamma gli ha portato dei ravioli, perché ha detto che non mangia, mangia sempre scatolette, avrebbe gradito qualcosa di più fresco. Gli ha portato i ravioli al sugo, col formaggio sopra, no? E li ha graditi. Adesso l'altro giorno, andando via, mi ha detto, dice, posso chiedere un favore, mi potete comprare una confezione di pane dell'affettato, però che non sia prosciutto cotto né mortadella, che non mi piacciono, a me piace solo il salame. Capito, devo andare a comprare apposta per lei la confezione di pane e il salame e portarglielo il giorno dopo, che andavamo al mare, no? A me dà fastidio quando gli dai il dito e si prendono tutto il braccio, capito? Cioè, nemmeno la cortesia di chiedere, non mi va, non mi va. Se no lei poi ogni volta che ci vede si aspetterà che le portiamo roba. Infatti, no, ma tu invece ti mi aggavavi a fura, ecco il salame. Ma quello è salamino però. Cioè, questo non è salame, questo è salamino. Salamino di Norcia, amico, quello piccolino. E vedi che tu quando lo maneggi dopo diventa un salamone. Non la sai, no. Misure medie, misure medie. Mi ha dato fastidio, gli ho detto a mamma, non mi va però. Comincia a darci la lista della spesa perché poi ci mette difficoltà. Magari non dobbiamo uscire e dobbiamo uscire apposta a comprare il pane e l'affettato per lei, no? Ci sono tante persone che chiede anche agli altri. Ecco, questo è sempre quello che ti dico io Natali, non bisogna mai dare niente a nessuno, fare il passardo, perché tanto poi dai un dito e si pigliano il braccio, capito? Sì, infatti per me questo dell'ultimo piano, no, qua, siamo più sopra di me. Se vai un dito e se volo braccio, sembra che tutto gli sia dovuto. Ah, così è, così sono i vicini, Beh, ma almeno una persona conosciuta, ma che lo faccia una che sta lì buttata a terra. seduta, passa tutto il giorno seduta sul marciapiede. A un certo punto è alienante, sì, io mi sarei sparato forse. Lui butta queste lattine, queste scatolette di roba che mangia, le butta lì nelle aiuola. È uno schifo, si vede, un porcile vicino a lei. E invece andare a buttarla in qualche cassonetto la butta lì? Che lì cassonetti proprio non ne ho visto, nemmeno cestini. Avessi visto un cestino a portata di mano lì, ma non ne vedo. Forse ho guardato male io. Io non butto niente in spiaggia, Io ogni minimo fazzoletto che uso, ho la busta della Mondezza, ogni briciola che faccio la metto nella busta e me la porto via. Se ogni tanto trovi in mare, se in spiaggia lasciate bottiglie di birra, pacchetti di sigarette, palloni bucati, i sassaresi sono così. E quello che danno la colpa ai turisti, non è vero, che ci sono sassaresi. Quelli che arrivano col tram, quelli del monte oppure latte dolce, tanto si vede dalle facce che sono di latte dolce. Santa Maria di Pisa, è proprio vero. Oh yeah. Ma cosa vuoi ti dica? Purtroppo è così. Adesso è vietato anche andare a fumare in spiaggia, non puoi fumare, se ti vedono fumando ti mettono una multa che te ne lecchi i baffi. Vabbè, però adesso nei locali pubblici non puoi fumare, no, nei bar non puoi fumare, nei giardini non puoi fumare, in spiaggia non puoi fumare, allora vietate il fumo, se è così nocivo. Lo Stato, anziché mangiarsi i soldi dal monopolio, deve rinunciare al monopolio e vietare le sigarette. Non lo fanno. Perché lo Stato è come la mafia, non interessa che ti avveleni i polmoni o che ti rovini con le macchinette jackpot, l'importante è che lo Stato ci guadagni, capito? Lui ti avverte, può far male, può dare la sua fazione, però poi i soldi se li prende, quindi lo Stato è come la mafia. E la mafia è come lo Stato, identico. E infatti, io con queste macchinette c'era un amico mio che non usciva più di casa perché si stava rovinando. Ehi, c'è gente che ha visto gente giocandosi tutto lo stipendio, 1500 euro in un giorno. È uscito anche un articolo sul giornale di una donna che è iniziata così giocando per scherzo e poi si è rovinata. Dice che è arrivata a sperperare 1500 euro al giorno. Capito? Lo Stato dice attenzione, può dare la sua fazione, quindi la coscienza dello Stato è pulita, capito? È uno schifo. E vabbè, cosa vuoi ti dica? Io già non fumo, non bevo, non gioco a macchinette, non faccio niente che mi possa danneggiare. Io l'unico vizio che c'ho è quello del fumo, ecco. Io te l'ho detto Natali, non fumare, cerca di smettere le sigarette, casomai date all'alcol. Ogni amare di rendia. Così passi dalla padella nella brace. Ah, un altro vizio quello. E io posso bere quanto voglio, però sono semi-assimio. Qualche volta quando mi assino un bicchiere di vino me lo bevo. Certo, a pranzo, per esempio, quando siamo andati in pizzeria, no? Potevo pigliare anche una birretta con la pizza, però a me piace più la Coca-Cola, non venuta la pranzo. Poi alla fine mi sono preso un digestivo Montenegro, molto buono, però più in là non vado io, capito? Vabbè, un Montenegro è buono, però uno ha fatto una classifica, no? Ci sono gli amari, cioè veri amari tipo Farnese, che però è fiele, è amaro come il fiele, fa anche schifo perché sembra medicina cattiva, no? Ci sono i dolci amari, tra cui il Montenegro, no? Poi dice gli amari dolci, hanno detto tipo Jägermeister, non so. cioè l'amaro dovrebbe essere amaro proprio per definizione, invece gli amari sono anche troppo dolci. Io lì, ma gli Jägermeister è dolce, a Montenegro è dolce, capito? Sembra più un, non so come definirlo. L'amaro deve essere amaro, mi deve essere proprio come il Fernet Blanc. Un giorno l'ho assaggiato, mi ha fatto schifo, schifo, più medicina cattiva era. Adesso per esempio, no, come digestivo, mamma prende sempre quegli amari del discount, no, da poco prezzo. Sì, sono buonini, però io non ho mai assaggiato lo Jägermeister e ho voluto comprarlo, una bottiglia di Jägermeister. Devo dire che è buono come può essere buono il Montenegro, però è forte, mi sono 35 gradi, eh. Boh. Ah, io... piace il Montenegro, mi vedi, quello lì già mi piace, l'ho preso quando siamo andati in Sicilia. Io lo so perché l'ho preso, perché lo prendeva Claudio, la prima volta l'ha preso Claudio, questo Montenegro mi girava in testa, l'ho assaggiato, è buono. Guarda, anche lo Jägermeister è buono, abbastanza dolce, aromatico. Mi ha detto mia zia che il Lucano, l'avevo assaggiato anch'io, l'amaro Lucano sa di uva, lo sai, è buono e sa anche di uva, molto molto buono. E infatti la prossima volta prendo quello, ma costano anche un po', quindi se, mentre un amaro di discount ti costa, non lo so quanto costa, 5 euro così, 3 euro, 4 euro, gli Jägermeister sono 12 euro per dire, costano tutti intorno a quelle cifre, non è che lo puoi comprare tutti i giorni, no? Sì, infatti. Comunque è vero, l'amaro Lucano sa di uva. Se non sbagliate il nome è quello, è buono, sa proprio di uva. Qui ce n'è un bel, guarda, di forte c'è anche l'Unicum, quello che ha la croce rossa disegnata a Svizzera. Unicum è forte, mi lo stesso. Non è per tutti, è come amaro. Però mai provato, mai provato. I più puzzolenti sono proprio l'Unicum e il Fernet. Il Fernet Blanca. Il Fernet alla menta, lo sai chi lo beveva? Il ceccio, quello che stava vicino a te. Ma poi che sarebbe il Brancame, il Fernet alla menta sarebbe, no? Sì, quello alla menta prendeva lui. Che sarebbe il Brancamenta? Però è il Brancamenta, Bruce. Chi è il secco? Oh, so quello che era la croce blu con me, come cazzo si chiamava, il marito di quella Bamazza. Ah, Emilio. Ehi, Paola, quando era giovane già era buona. Non ti posso dire particolare, ma quando la vedevamo poi ci veniva voglia di fare pippe. Era amica di mia zia. Solo che si è scelta male di uomini sempre, perché Emilio era un tipo violento, non è la persona da sposare, dai. Lui dopo l'ha chiamato il mostro, lo chiamava il mostro, pensa. Figurati. E' sempre stato testa calda, anche Gianni mi ha detto quando era la croce blu, una volta a Sbronzo voleva guidare, cioè non vede, voleva guidare. Allora lui si è messo la macchina e ha bloccato l'uscita. È una cosa che non sei, lo so, era la croce blu con noi. Testa calma, prima e dopo, mamma mia. Poi purtroppo il vizio era quello, la Beozia, trovavano addormentato alle 6 di mattina, coricato davanti al bar, sul gradino del bar. Ma quando mai? Una volta il cognato, il fratello di Paola, gli ha tirato una fucilata alla capota della macchina. Lo so, so tutto, mi aveva sparato. Chissà che fine ha fatto Paola, adesso è grandetta, avrà superato abbondantemente la cinquantina, anche di più. E Paola era carina, ho una foto di quando stavo aspettando, anche prima. E vabbè. Sì, mi aveva fottuto il posto alla camera mortuaria, lavora lì. Oh, lavora lì, lavoro mi, mamma mia. Io sono allergico a quelle cose. Mamma mia, che brutto. Il cimitero non mi fa quell'effetto, ma la camera mortuaria, mamma mia. Non abbiamo visto nonno morto su quel tavolo di acciaio inossidabile, mamma mia, che effetto che mi ha fatto. Io a Pala l'aiutavo perché quando era nel trattare, io e lì andavo a prelevare nei reparti morti, uno o due ne abbiamo sceso insieme. Quella è una cosa che non riuscirei a fare, mamma mia. È già stato troppo vedere un nonno morto. Non è per me, sono troppo di cuore tenero. Andavo anche in patologia medica, in patologia legale andavo io a prenderli. Insieme all'infermiere della camera mortuaria, per portarli alla camera mortuaria, no? Mamma mia, se no la patologia legale mi... che li aprono, per carità, guarda. È certo che li aprono. Lui li mettono i punti e noi li preleveramo per portarli lì alla camera mortuaria. Io ero autorizzato, per esempio quelli che c'erano con me non potevano entrare. Entravo io e l'infermiere della camera mortuaria solo, perché ero autorizzato io solo a entrare, capito? Eia. Brutti posti, purtroppo anche quello fa parte della vita. Ok, Claudio, ci sei? Sta facendo sempre più tardi, Claudio, adesso che ha fatto il turno lungo oppure è stanco morto. Io sono Natalie, sei vestito come? Io sono in mutande, punto, non ho altro, sono in mutande proprio. C'è il ventilatore a pian piano che muove l'aria, c'è una leggera, bello, un leggero fresco che mi avvolge. E io sono a petto nudo, ma ho dovuto mettere il pantalone perché è venuta l'amica di mia moglie, se no anch'io ero in mutande. Potevi trovare nudo e scappellato. Come dicevano a Paoletto al telefono, quello che lo chiamava, dice, è puro, è scappellato. E lui è quello, lo dai a quello, è di tua madre, hai capito? Che è successo? Anche quella del baracchino è stata l'età dell'oro, mi. Quando c'eravamo noi, tu sei entrato anche prima. Che anno sei entrato tu la prima volta, Natalia? Io nel 76, mi sembra. No, io molto più tardi, giustamente avevo 13 anni, ero 84, con un portatile, un bel portatile, devo dire. Mi sembra lontano 84, penso, 94, 2004-2014, caspita, 33 anni fa, una vita, mi, Natalì, una vita. Non tornerà mai più. Sì, sono passati da 33 anni, una vita, mi, da quando sono entrato al baracchino, una vita intera è passata. Infatti. Io sono entrato, mi sembra avevo 18 anni, una cosa del genere. Ma la posso dire io allora? Vabbè, Giulio. Ehi, ciao. Stavo aspettando un Natalino. Io 1972, 45 anni e mezzo. Eia. Un primato, vediamo chi riesce a stabilire il primato, perché la 27 secondo me fra pochi anni non ci sarà manco più, lo sai. Ho paura che la gente diminuirà sempre più e poi rimarrà vuota, latente, finché magari la riassegneranno ad altri servizi. Non dico adesso, ma magari fra 10-20 anni. È già abbastanza, diciamo. La gente adesso è abbastanza, diciamo, ormai è stata assolutamente. sarà. È sempre stato, vabbè, no, prima era più diffuso, perché non esisteva né computer né telefono. Adesso è un prodotto di nicchia, solo alcuni eletti entrano ancora al baracchino. Quello che ha rovinato tutto è stato il telefono, già negli anni 90, negli anni primi anni 90, e poi il computer, non ne parliamo. Sono stati la morte del baracchino. Purtroppo sì, non è cosa ci vuoi fare. Sai che le cose belle durano poco per modo da dire, tra virgolette, perché esiste da tantissimi anni, c'è gente che ha più di 50 anni frequenta. Gente come, ad esempio, come Walter, come Gio Maria, gente che ci viene con la cinquantina d'anni, per cui cosa ci vuoi fare? Poi a un certo momento, quando si comincia ad avere una certa età, uno si stanca e non spaventa più. Vabbè, pazienza. Avanti, Nathalie. Ma che vuoi che ti dica? Stanno facendo chiasso, sono in strada e fanno chiasso, a bordo di domeni. Non c'è il tuo vicino, no? No. Picchia di con la pompa. Oh, quello di su ne ha bagnato qualcuno. Vedi, Giulio, prima non entravano solo amanti della radio, entravano anche ragazze, giovani ragazzi, per fare conoscenze, proprio per conoscere gente, darci appuntamento. Era più una necessità, come sono adesso le chat per conoscersi, no, queste qua, anche computer. Poi quando hanno trovato mezzi alternativi, cellulari e computer, per parlare con altre persone, per conoscere nuove persone, hanno abbandonato la radio. Perché? Perché non erano amanti della radio. I veri amanti della radio sono sopravvissuti tuttora. Ora pochi ma buoni. Beh, uno non è proprio un grande appassionato, non può durare tanti anni, assolutamente. Dopo che uno si stanca, la curiosità finisce, perché tutta la gente, la maggior parte della gente è entrata in radio proprio per curiosità, non certamente per la passione per la radio, assolutamente. Quindi soprattutto la classe femminile, sono spariti tutti completamente. Prima c'era quasi quasi, c'erano più donne che uomini, frequenza. Adesso non c'è più nessuno, non c'è nessuno, nemmeno se tu la vuoi invitare a pranzo la truppa. Poi, per esempio, una volta al baracchino lo trovavi in quasi tutti i negozi di elettronica di allora. Era come un elettrodomestico, lo trovavi la scarpa, lo trovavi da Cineradio, lo trovavi da quello in Via d'Italia, come si chiama, quello che ha fregato Pomponio, Usai, lo trovavi nei negozi proprio di elettronica, era come un normale elettrodomestico da usare, come adesso trovi cellulari, computer. Quindi chi voleva scambiare due parole se lo prendeva, lo usava come mezzo di comunicazione, perché il telefono fisso, sai, ti costava la bolletta, lì era, possiamo pagare 15 euro e si parlava tutto l'anno, per dire, conoscevi gente, eccetera. E vabbè, purtroppo il progresso, possiamo chiamarlo progresso. Progresso tante volte anche regresso. Sì, allora lo sai, lo conosco benissimo, abbiamo lavorato insieme quando eravamo giovanotti, abbiamo fatto tante in quei incontri sui tetti, quando andavamo a installare le antenne, perché allora io facevo delle circhiste, era antennista, no? Per cui lui lavorava dove lavoravo io e andavamo insieme, soprattutto l'inverno, per saldarci sui tetti. Poi quante tegole abbiamo frantumato, di quelle tegole marcevi, soprattutto per stare zitto, per carità. Venga. Perché Pomponio ci ha lavorato, ma qui non pagava, ci sono accumulati anni e anni e anni, e tuttora non ha avuto niente Antonello. Purtroppo molti si approfittano di chi ha necessità. Cos'è questa roba? Aspetta un po'. Ah no, nulla. Riprendi l'altalino. Stavo guardando roba al computer. Ma sono contento di essere rimasto a casa per oggi, là. Non avevo proprio voglia. Giulio, ma volevo andare al mare, io non lo so, ho detto decidiamo dopo perché preferirei riposare. Poi mi sono addormentato nel pomeriggio e mi sono svegliato alle 6 quasi, quindi niente a mare. Certe volte non hai voglia di stare a faticare, guidare col callo lì, portare la roba, scendere in spiaggia, poi riportare tutto indietro, riguidare, tornare, insomma. Casomai domani, dai, raccolgo le forze per domani, tanto ho capito che il caldo durerà per un altro po'. Ok, vabbè, anche per quello, se uno non è proprio un grande appassionato del mare, no. Non ci faccio, ma un giorno, due giorni, così quelli che sono veramente appassionati, soprattutto quelli che hanno la passione della pesca, eccetera, ci vanno e si vanno praticamente, fate il discorso estate, eccetera, ma quelli che ci vanno anche d'inverno con la pesca, eccetera. Ehi, e prima una volta almeno qualcosina la facevo di pesca SUP, magari in due metri, due o tre metri d'acqua, niente di impegnativo. E adesso nemmeno più quello, ero più audace un po', adesso sono un po' più stanco, non lo so. Pensare, mamma mi ha regalato un fuciletto, sempre per polpi da tana, no, un fuciletto tipo midi stem, come si chiamano, quelli medi, pompa, pressione, da pesca sub, ma non ne ho voglia ancora, non la sento, vediamo cosa riuscirò a fare dopo, mi stanno rompendo le pinne dietro. Volevo gialle per motivi di sicurezza, per visibilità, a gialle non le fanno più. Aspetta Giulio, blu le fanno azzurre, basta. E boh. Quando la crisi in catalogo c'era gialle, purtroppo i numeri grandi non si trovano. Si trovano i numeri da bambini di color giallo. Perché io ho maschera gialla, con la montatura gialla, il boccaglio giallo e volevo tutto in tinta perché se cominci a metterti una cosa di colore diverso dall'altra diventa un pasticcio, diciamo. Sono monomarca, tutto della Crisi Sub, la maschera, il boccaglio, il corpetto, il freddo e le pinne. Per non dire coltello, fucile no, il fucile è un Homer, Homer Sub mi pare. Ehi, va bene. Tingetemi, prova a tingere, poi la secca leggo. Mi direi, ma sono di gomma, la bellice salta. Ma ora sì, non lo so fare. Però se li fai, se vuoi chiudere, mi vada di mezzo. Che cosa? Vai dal casolaio e ti prende la misura, la forma, e te li fai fare. Che vergine. E puoi colorare come ti piace. Eppure a Sassari niente, sono andato alla Forbice, sono andato alla Sportland, niente da fare della mia misura. Eppure io sono convinto che se controllo dai negozi di pesca online io la misura la trovo. Secondo me la trovo la misura, di quel colore che dico io. Il problema è che le pinne vanno misurate, perché se le prendi, io in teoria ho 43-44, proprio le compri, arrivano e scopri che la misura magari è larga, allora devi prendere 41-42. Non sono mai perfetta, lo sai, le misure. Deve essere aderente la pinna, giustamente aderente, certo non troppo, non ti deve far male al pallone. E vedremo, dai, andremo. Peccato, se no cosa vuoi che ti dica? Metto l'anima in pace, me le compro blu. Pazienza, azzurre sono. È bello il colore. Però avrei preferito gialle. Ok, riprendi Natalia, e tu di pesca, sub, non ti è rimasto niente? No, non solo, mio fratello mi ha perso giusto, gli ho prestato l'attrezzatura e mi ha messo giusto, qua, io la morte. Ah, perso se li sono tenuti, così è. Lui ha detto che l'ha perso, la roba. Ma lui si tirano i denti, non lo so. Comunque io dalla volta ho smesso di fare pesca sull'acqua. Che poi basta anche poco, mi portoferro, ricordo, era un ragazzo tutto barbato, aveva milioni di attrezzatura, migliaia di euro. Non ho preso niente, sono entrato io in acqua, con solo costume, con un fucile a molla, giocato il polpone o simile della Francis Sub, piccolino. Passata una bella settimana sotto di me, io avevo il fucile in verticale, l'ho puntata, sveng, fa un rumore proprio di molla. Presa la seppiona, una bella sebbia, l'ho portata fuori, lui ha detto ma non l'avrei presa con quello, non è possibile, ho detto guarda la roba che ho fatto vedere l'asciugamano, lo zaino, non ho altro, era sotto di me, gliel'ho data perché non mangio quello che pesco, gliel'ho data a lui, a voi, ho detto non le mangio, giusto il gusto di prenderle. Come vedi, bisogna avere solo fortuna di che ti passi il pesce vicino, insomma di provare una tana, certo. Il polpone, pensa che lo vendono tuttora il polpone, a molla, piccolino, lungo 60. Come lo carichi in acqua fa strengo, fa fuggire anche il pesce, fa romoraccio. Eppure funziona, perché io l'ho usato per scorfane, l'ho usato per seppie. Colpi, funziona, distanze ravvicinate funziona, per esempio in pana è inutile usare un fucile enorme, e tanto ti si rovina l'asta, basta anche quello, punti dentro la tana e spari, ed è fatta. Sì, lo so, ma è meglio il fucile elastico di quello, quindi un fucile elastico almeno è più silenzioso e tutto. Sì, l'elastico sì, però mi trovo male in aperico con l'elastico, per me è duro da caricare, mi trovo meglio con la pressione, perché posso regolare la pressione io dentro, no? Di solito va da fino a 20 atmosfere, io lo carico a 10 o poco più e lo faccio della durezza che voglio io, no? Tanto è inutile avere un fucile potentissimo. A proposito, adesso ve ne dico una. Anni fa da Pasquale avevo comprato un Cresci SL70, quello lungo, no? Non lunghissimo, 70 cm, insomma, un bel fucile. Ed era già precaricato dall'inizio, era dalla fabbrica. Sento che questo fucile era durissimo da caricare, era talmente duro che era quasi incaricabile. Tant'è che la prima volta che l'ho usato in acqua l'abbiamo dovuto caricare in due spingendo l'arpione contro la roccia. Era una cosa... guarda, viene male anche a dirlo. Allora ho provato a sparare un colpo in acqua, eravamo a Cala Viola, a sparare un colpo in acqua senza pesce, no, così per prova. E ti spara questa fucilata, Natalì, una fucilata, spara, tant'è che l'asta con la velocità ha tirato il fucile tramite il cordino, proprio mi sono sentito il fucile tirare. E cosa è successo? Che probabilmente, come l'hanno caricato in fabbrica, il massimo di quelli è 30 atmosfere, devono avere sbagliato e anziché metterlo a 20 o 15 l'hanno caricato a 30 atmosfere ed era durissimo da caricare, ma poi lo sparo era potentissimo, si faceva non so se 5-6 metri, proprio un fucile baria, un fucile a pompa messo in acqua. Allora cosa ho fatto? L'ho messo in verticale con la valvola in alto, ho premuto la valvolina con una penna e l'ho diminuito di pressione perché era troppo duro. era incaricabile. Ho detto, ma non è possibile, sono debole io. In due l'abbiamo dovuto caricare, non so se mi spiego. Allora poi, dopo che ho diminuito la pressione, è tornato a funzionare normalmente. Guarda che c'è il Medifan che ha il regolatore di potenza addirittura. Tu lo metti al minimo e caricando è tranquillo, poi se quando devi sparare lo buono al mazzo. Eia. Anche i cresci, cioè sia fisso che con riduttore di potenza. Io sono fissato con la cresci perché mi piacciono le maschere di più, mi piacciono le tipo di pinne e tutto quanto. Monomarca sono io quasi. Sì, sì, con regolatore, però non so perché, non mi sono mai fidato a Natalini, lo sai, perché ho letto forum, ho sentito che a molti se si rompeva qualcosa, si rompeva il regolatore, che usciva, entrava acqua dal regolatore, allora l'ho voluto fisso. Eppure quel medicine che avevo io non ha fatto mai nessun difetto. Sì, un caso infatti, cioè, dipende anche come lo tratti, dipende se è un difetto di fabbrica. Il regolatore è una bella cosa perché se c'è un fucile anche grande e devi sparare una tana, ti distruggi la punta, ti piega anche l'assa se è troppo potente. Allora tu inserisci il regolatore ed è più blando, capito? Giulio e tutti si è mai dilettato con la pesca sub, anche leggera, roba così, fine settimana. Sì, ma Giulio, ho mercato. Vado da Giulio, ho mercato. Soprattutto i furti. E le metto 25 euro in mano e lui mi dà 20 euro per i furti. No, non ho mai avuto il passione andare a pescare. Io ho la passione per andare a pescare solo al mercato lì, da Giulio, vado lì, per pesca sicura, senza faticare, niente. E ti dirò che sono anche buoni per quello che pesco. Quello è il metodo più facile di pesca, vai lì al mercato, al bancone, sventoli i soldi e il pesce si attacca subito. Ma si fa di solito per divertimento, per sport, così dai. Il gusto di prendere un pesce, no, o qualsiasi altra cosa è bello. Poi non lo faccio in modo impegnativo, io stavo spesso in superficie, sparavo sotto a quello che c'era. Ma qui in Topettine c'erano polpi e polpetti anni fa. Poi la zona è stata talmente battuta che non ho più visto un polpo, niente, non ne ho più visto. Ah, mi ricordo quando facevo il trappetto, un giorno è passato il rappello, portato qui in Topettine, è passato quest'uomo e aveva una rete circolare, tu immagini una tovaglia di un tavolo rotonda così, era però grande, questa rete era molto grande, e aveva due figli che lui cosa faceva? La prendeva in un certo modo, la buttava in acqua, così proprio in riva lì praticamente, se no non è che si allontanava molto, con l'acqua alle ginocchia massimo, e la portava su. Quanti tiri di Gugini ha portato su. Una sera ha dato Gugini a tutti quelli che c'erano nella spiaggia, tutti i campeggiatori, tanto per dire, su stanno facendo Gugini il giorno. E lui difendeva così, con questa rete, quando scendeva in aria c'erano in mare, c'erano questi piombi, c'erano attaccati a questa rete, come sareva. Lui tirava questi fili, prendeva alghe, prendeva tutto, però prendeva anche i musici, pesci in quantità. Eia. L'altro giorno a Natale stavamo parlando di Siemanno e quanto capite Siemanno è di nuovo una specie di campeggio, perché l'altro giorno è andata a fuoco una roulotte di Siemanno e hanno preso fuoco altre tre roulotte, mi pare, tre o quattro roulotte. C'era il fumo, devi vedere, si vedeva da chilometri. Sicuramente è diventato di nuovo una specie di campo jingle, ruote, camper, macchine. Io tanti anni fa l'avevo visto, ero rimasto spiacevolmente impressionato, era tutto roulotte, camper, come un piccolo villaggetto, amico, in una specie di campeggio col mare davanti. Ti dirò che mi piaceva, ci abbiamo anche dormito in tenda, così, detto tra noi, in tenda dormo malissimo, non riesco a dormire, non so voi. Ma io ho fatto tanti anni in campeggio e si dormiva, rimanevamo al mare dei mesi, per cui poi alla fine siamo cercati una tenda annullata e allora avevo pensato veramente, avevo pensato che avranno rotto, me l'hanno strappato, allora mai più campeggio. Anche perché ormai non ce la siamo più nemmeno trattato, ma sono tutti con il cielo ombrellone, no? Solo la tenda, stare lì al mare, campeggiato per mesi e mesi, ci vuole la attrezzatura. Io avevo anche la gabinetta che era poi in realtà era la cucina, l'avevo fatta io in legno, la cabina di legno, il montabile, e dunque avevo tutte le comodità, ma oggi non sono permesso, per cui non ce ne sarà da fare. E sai cos'è, Giulio? Che purtroppo adesso è tutto vietato, guai se campeggi in binetta, bisogna andare solo nei campeggi chiusi, diciamo, quei campeggi ufficiali, come il Calix di Alghero e quel Mariposa, ma il Mariposa è come un lager, c'è a quell'ora di ritornare entro tale ora perché lì chiudono, poi tutti a dormire, capito? Non è che puoi stare lì a fare musica con la chitarra. Infatti si fanno i tedeschi là, che sono molto precisi e inquadrati, alla Mariposa. È sempre tutto organizzato, il posto tenere, a me piace andare alla selvaggia anche. Non sai se ti svegli il giorno dopo, non sai cosa ti capita. Ho un fascino particolare, lo sai. Andare in zone più isolate, che se poi ti può capitare di tutto, rapina, il maniaco, che ne sai. È un fascino particolare. E adesso da tanto che non ci vado. Come sempre, se presti la roba ti torna o rovinata o sporca. Ho prestato una tenda che era nuova, è tornata con la sabbietta, sai, con la polverina, con le cacche di piccione. Non bisogna prestare nulla perché la gente se ne frega, poi te la ritorna con sporca e puzzolente, te la ritorna la tenda. No, per tutto non va a restituire nemmeno, ma la strappata al vento, e allora la riposo, no, la strappata non me la portare nemmeno, se io la devo buttare, se buttava io buttava tu, se l'hai almeno usata, l'avevo prestata a un fratello di un mio cognato, l'avevo prestata e ha fatto la fine che ha fatto, ed era la mia, era grande, era bella, mi c'erano i cartini dentro, per sette posti, per cui stava bene, spazio in quantità, e andavamo tutti gli anni, noi abbiamo fatto per anni, tantissimo, anni e anni, vabbè, allora mia figlia era piccola, per cui andavo anche per quello, per teatro, per portare la famiglia al mare, e io viaggiavo, andavo a lavorare, viaggiavo, allora è caldo, andavo a pranzare, lì al mare, poi ritornavo al lavoro, e poi la notte, naturalmente, andavo nel tavolino, c'era la famiglia, chiaro, capito? Ma ne facevamo anche 3-4 mesi di campeggio noi, tutti insieme. Caspita, è bello così anche. Naturalmente per divertirsi più uno dovrebbe spostarsi spesso, fare, che ne so, 15 giorni in una zona, 15 nell'altra, o un mese lì, un mese là. No, io non ho niente di fiero personale, tipo i glu, tende ai glu, tre posti, che da solo in quella tre posti ci stai benissimo, ci sta lo zaino con tutta la roba. E certe volte venivano gli amici con la lista. Allora mi serve la tenda, il sacco a pelo, la stoietta, la lanterna a gas, capito? Venivano con la lista alla spesa. Il sacco a pelo che è una cosa personale, no? Che ci dormi personalmente con la pelle, insomma, che darlo a una persona sconosciuta no, non mi va proprio. Non mi fa infatti non è adatto. Invece l'altra volta ho dato la tenda, tempo fa ha detto una tazza sporca. Infatti mai più, la roba personale non si presta mai più a nessuno, perché tanto torna rovinato, rotta e non ti ripagano mai. Nessuno ti ripaga mai, nemmeno gli amici te la ripagano, capito, se te la rompono. Assolutamente no, però è bello, sì, però sai cosa succedeva? Arrivavano tutti i parenti, ma scusa, sapevano che io ero lì al mare e avevano tutto l'appoggio, e dunque magari anche che rilassatevi facendo delle ferie e te dovevi lavorare e soprattutto dovevi spendere, perché tu preparavi il pranzo, c'erano loro che le dovevi invitare, anche loro si degnavano di portare niente. Altrettanto per la cena, dopo cenato tutti quanti se ne andavano, però nessuno si permetteva di essere collaboriati, nulla, tutto ricadeva poi sulla fatica di mia moglie. Ma dico io, se tu vieni, sei invitato come minimo, devi dare una mano, no? Invece no, per carità, guarda, in una parte non conveniva, o perlomeno lì nel fare campeggio te ne devi andare molto lontano. E non dire mai dove sei andato, in modo che nessuno venga lì ad aggregarsi, perché guarda, ti distruggono. Guarda, vi ricordo, lo raccontava Graziano, no? C'è lo stesso, insomma, bisogna comprare un bel po' di roba da mangiare, eccetera. C'erano tipo parenti, amici dei parenti, insomma. Soprattutto i giovani, si presentavano senza niente, non portavano niente, non portavano una vita, non portavano niente. Si presentavano casualmente all'ora di pranzo, mangiavano, quattro ganasce, poi appena finito di mangiare alzavano i pacchi e sparivano. Non aiutavano né a lavare i piatti, non contribuivano portando niente, proprio si presentavano all'ora di pranzo, mangiavano e se ne andavano. E Graziano, siccome appunto non te lo manda a dire, glielo diceva in faccia, capito? O di contribuire o di non venire lì a mangiare e a scomparire, di aiutare in qualche modo. È sempre così, se quello che arriva, si presenta, mangia e se ne va. E non aiuta nemmeno. Tu, Natalie, campeggio ne hai mai fatto? Sì, l'ho fatto, però tanto tempo fa con mio padre. Mio padre anche la tenda aveva costruito con i ferri, tutta la cazzera, più sardi. Tu pensa che un giorno, no? Uno dei tantissimi giorni, come facevo sempre, c'erano i parenti, però no, tutti i parenti, naturalmente. La parte di mia moglie, tra l'altro, non tanto quella della parte mia, che le frattempi tutti lavoravano, per cui non è che avevano il tempo di venire lì, stavo qualche volta così. Avevo portato una cassa di birra e una cassa di acqua minerale, allora è fatto, allora l'avevo scaricata, lui non l'ha scaricata, perché era giusto fare così, no? Una volta quando sono andato, perché non è pranzo, ascolta, una volta quando sono andato, io faccio a mia moglie, e devo dammi un bicchiere d'acqua alla scotteria. Non c'è più acqua giù, bisogna andare a comprarla, sì, andare a comprarla. Ma portata non è pranzo. Vabbè, e mi hanno messo bicchiere in birra, io non bevo, io. Ma avevo sete, e dammi mezzo bicchiere di birra, non c'è più nemmeno birra, tutta consumata. Ma avevano consumata tutta i miei parenti lì, perché io non la bevo, mia moglie non la beve, e la portavo sì, perché venivano loro, sai, gli ho finito la birra e era giusto. Ti dico, in una serata sono bevuto una cassa d'acqua e una cassa di birra. E tu a bocca asciutta, così è? A bocca asciutta e col portafoglio nuovo svuotato, perché parlavo io sempre. E lo sai che... No. Poi c'era una cugina di mia moglie che aveva quattro figli femmine, uno più vicino all'altro, erano bambini, l'alcol, tutto quello che vuoi. Ma erano talmente viziati, allora è giunta anche le altre, volevano l'acqua per dire, no? Hai capito? Era un gelato, perché poi non parliamo di gelati lì, per carità. Io avevo frigo, avevo tutto, vero? E lo chiedeva una bambina e lo volevano tutti quanti. E se ti sto dicendo, era una desolazione, non era possibile, guarda. Infatti poi alla fine l'hanno che l'hanno prestata, noi ci siamo andati, se buon fatto non prendiamo più perché si aggregano e non ho nessunissima voglia di fare le peglie così, in questa maniera. A preferenza ce ne andiamo lontano, ce ne andiamo proprio lontano, lontano, e ci stavo magari una giornata intera, poi ritorniamo dopo un paio di giorni e così via, capite? Sì, sì, per conto vostro. Sempre così è, come vedi, da te, da Graziano era sempre la solita storia. Natali, vabbè, tu tanti anni fa, no, io andavo alla selvaggia per conto mio, però bisogna stare attenti, certe zone bisogna stare attenti. Bene, signori, che ore sono? Me lo potete dire? Sì, sono le 8 meno un quarto circa, meno 47 minuti, le 8 meno 47, cioè meno 17, no, sto sbagliando un arco, meno 17. Ah, ok. Oggi Claudio non è entrato, Claudio ci sei, va bene? Va buon lavoro, anch'io chiudo, dai, ci sentiamo. Vediamo magari domani, un altro quarto d'ora più o meno, così, perché non fa più, dai, non fa più, se non entra gente, non c'è voglia di, tante volte la sera anche alle 4 accendo lo scionario, allora rimango così, nel mal computer, lascio acceso, non sento nessuno fino alle 6 e mezzo, alle 7, per quell'ora, è già ora di chiudere praticamente, tutta la sera accesa, la fariglia, e non è da nessuno, tanto male che le vai a fascinare e farsi meglio le giornate. Bravo, là, ci sentiamo, ciao Marco, grazie per la chiacchieratina, dimmi adesso quando chiudo, dimmi quanto ti sto arrivando, con 5 watt scarse anche, di segnale volevo dire. Ciao Natalia, alle prossime. Ci sentiamo, ciao, ti prendi pure ma. Qua segna 9 più 15, buoni, abbondanti, buono qua. Noi vabbè ci tratteniamo un altro po' al limite fino alle 8. Giornate, io giustamente gli ho detto anche a Natalino, mi dedicherò un po' al mare perché anche a mamma piace, quindi alla fine siamo sempre in due al mare. Baracchino si può entrare quando si può. Ok. Lui oggi non è entrato Franco, non è entrato Valerio, insomma, poca gente oggi, c'erano tutti al mare a mostrare chiappe chiare. Ciao Giulio, cosa? Magari già trova niente. Ci sentiamo, ciao. E io, Natali, che avete parlato in due. Ciao Giulio, ho detto, magari stanno lavorando, non è entrato proprio nessuno oggi. A Claudio ieri l'hanno telefonato, è dovuto riuscire ieri sera. Non me lo dire. Te lo dico, è dovuto riuscire perché l'hanno telefonato. È rientrato dopo un'oretta. Mamma mia, che paranoia. E oggi l'avevano messo sotto, secondo me è stanco. Sicuramente magari sta ascoltando ma è stanco, non ne voglia entrare. Domani non ci sarò io, perché tocchiamo ferro, se Dio vuole andiamo al mare, andiamo anche non presto però, perché andando più tardi non ti bruci e il mare è anche più caldo, lo sai, sembrava una piscina l'ultima volta che siamo andati, era calda l'acqua, e si stava bene, potevi stare 2 ore in acqua, capito Natalia? Quindi tipo 4:30 andiamo al mare, così il sole è meno forte, usiamo latte solare blando, tipo fattore 10, seppure ce lo mettiamo, ok, adesso adesso mi guarderò un telegiornale, vediamo cos'altro è successo. Tanto tutta la cronaca nera, politica non la posso vedere io, non la posso vedere. Io ho mangiato a metà, Natali, non ho mangiato dolci, frutta, niente, adesso mi rifaccio, dai, ok? Ci sentiamo, dai. Alla prossima, non so quando, ma ci sentiamo, ok? Sì, ciao ciao Marco, dai, alle prossime. Anch'io adesso, fra un po', quando rientrano da portare il cane, mangiamo. A bisumio la mia novibu andà a pigliarsi lo breco e non lo so se andiamo io e mia moglie. Certo che se voi volete andare, c'è da dire, ascolta, quello che volete, noi andiamo al mare a pigliarci il gelato. Vedete voi, dai. Ok, Natali. Ciao, ci sentiamo. Lascio acceso però qua, se tra pomponi a salutare, che ne so. Vabbè, sempre acceso fino all'una, alle due di notte. Ok, dai, Marco. Sono qui anche io, là, alle prusse.